12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parliamo di work camps, detti anche campi di lavoro o campi di volontariato internazionale. Cercheremo di capire che cosa sono, a chi si rivolgono e come potervi partecipare insieme a Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale che torna a trovarci, e insieme a Giada che ha fatto l'esperienza proprio del work camp. Che cos'è quindi un campo di lavoro? Quello che abbiamo capito facendo una breve ricerca è che si tratta di un'esperienza unica che permette di conoscere culture diverse dalla propria, di conoscere altri ragazzi che vengono da tutto il mondo ed è anche un buon modo per arricchire il proprio curriculum vitae. Ogni giorno si lavora dalle 5 alle 7 ore, nella maggior parte dei casi impegnati in attività di sostegno a servizi sociali e comunitari, progetti culturali, ambientali e di solidarietà. Nelle ore in cui non si lavora sono di solito previste attività di animazione, escursioni, visite, incontri con la popolazione locale o con le associazioni del posto. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora cerchiamo di capire meglio cosa sono e come funzionano i work camps, dando il benvenuto alla nostra ospite Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale. Sara, bentornata a 12 minuti. Grazie, ciao a tutti. Sara, quanto durano e in che periodo solitamente si svolgono i campi di lavoro? Allora, normalmente i campi durano 2 o 3 settimane. E il periodo è stato calcolato in base al fatto che non è troppo lungo affinché si creino dei problemi all'interno del gruppo, che comunque è un gruppo eterogeneo, e non è troppo breve, quindi permette ai ragazzi di legare molto tra di loro. E normalmente si svolgono nel periodo estivo, anche se poi li troviamo tutto l'anno. Chiaramente la maggior parte delle persone ha la disponibilità nel periodo estivo, quindi è tra i mesi di maggio e di ottobre che abbiamo la maggior parte che si svolgono la maggior parte dei campi. Sara, perché consiglieresti di partecipare a un campo di volontariato? Beh, normalmente i ragazzi che vengono da noi perché hanno voglia, insomma, di fare questa esperienza, hanno molta voglia di scoprire un po' il mondo al di fuori di quella che è la loro cerchia ristretta e anche hanno voglia di trascorrere una vacanza diversa, di mettersi in gioco, di conoscere altre culture. E gli obiettivi che stanno dietro fondamentalmente all'organizzazione di un campo, quindi dalla parte di chi lo organizza, sono quelli di abbinare, diciamo, l'esperienza di volontariato con una condivisione del gruppo, quindi chi partecipa sia svolge questa attività, questo progetto che conclude nella quella 3 settimane, sia poi lo condivide con un gruppo molto eterogeneo, quindi con un gruppo di persone che provengono da culture molto diverse, quindi c'è una conoscenza di altre abitudini diverse dalle nostre e anche il miglioramento poi linguistico, perché quello che la lingua che si parla, la lingua veicolare all'interno dei campi, è comunque l'inglese. Certo, che permette un po' appunto la comunicazione poi da paesi differenti. Sara, parlando un po' degli aspetti pratici, le condizioni economiche, cioè i costi di questa esperienza, quali sono? Ai partecipanti viene chiesto di versare una quota di partecipazione che di media va dai 130 ai 150 euro a seconda dell'organizzazione con cui si parte e il viaggio è a carico del partecipante, quindi chiaramente dipende dalla meta che si sceglie, mentre vitto e alloggio vengono offerti nel campo per tutta la sua durata. Sara, un'ultima domanda: come ci si può iscrivere e come poi si viene selezionati per poter partecipare a un campo? Sì, nei siti delle diverse organizzazioni, ce ne sono parecchie in Italia, ci sono dei database in cui si può cercare il campo e normalmente l'iscrizione può avvenire anche online, però si può comunque contattare l'organizzazione di riferimento per capire come effettuare l'iscrizione. La cosa interessante è che non ci sono selezioni nei campi, quindi chi si iscrive viene automaticamente accettato e quindi diciamo che è un'esperienza estremamente accessibile a tutti. Assolutamente. Sara, io ti ringrazio per tutte le informazioni, come sempre molto precise e utili, che ci hai dato. Grazie a voi. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi torniamo qui con Giada, che ci racconterà la sua esperienza proprio di work camps. E l'amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. E l'amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, matelano de samba. Dodici minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo parlando di work camps e nella prima parte abbiamo capito di cosa si tratta, come funzionano e come poter partecipare. Ora diamo il benvenuto a Giada, da cui ci faremo raccontare come è andata la sua esperienza di un campo di lavoro. Ciao Giada, benvenuta a 12 minuti. Ciao. Giada, dove si svolgeva il campo a cui appunto hai partecipato e qual era un po' l'obiettivo? Allora, il campo si è svolto in Francia, vicino ad Albi, la città dove è nato il pittore Toulouse-Lautrec, e il fine del campo era quello di sistemare un castello antico e di fare un sentiero, di sistemarlo un po', perché ormai si stava perdendo, nessuno gli stava dietro, siccome il paese era formato da pochi abitanti. Ecco, quanto è durato il campo, Giada? Il campo è durato 2 settimane, okay, nel mese estivo. Ok, in quanti eravate, non so di che provenienza erano anche gli altri ragazzi che partecipavano al campo? Eravamo all'incirca quasi 20 persone e erano di varie nazionalità, eravamo 2 italiani, poi c'era una percentuale di francesi, poi c'erano 2 armeni, 2 coreane e una della Repubblica Ceca e di altre nazionalità che ora non mi ricordo bene. Giada, con la lingua come avete fatto, nel senso in che lingua avete parlato? La lingua per me era un problema perché avevo paura di non farmi capire, invece quando si è nel campo la lingua non è un problema perché ci si capisce. Parlavamo la maggior parte in inglese, però io sapevo anche un po' di spagnolo, quindi con gli spagnoli parlavo in spagnolo. Certo, certo. Rispetto all'organizzazione, ecco, giornaliera del tempo, quante ore mediamente lavoravate e poi invece se c'era del tempo libero e in questo tempo che cosa facevate? Allora, lavoravamo la mattina all'incirca 5 ore, anche meno, adesso non ricordo bene, e dopo il pomeriggio i camp leader si organizzavano delle attività, tipo visitare delle città, andare a vedere una fattoria, fare dei lavori insieme, attività di vario genere. Certo, Giada, che cosa pensi di esserti portata a casa da questa esperienza e consiglieresti quindi ad un altro ragazzo di provare a farla? Consiglio di fare questa esperienza perché ti segna, a me è segnato, mi ricordo ogni momento dell'esperienza e ce l'ho nel mio cuore. E dopo, cosa ti porti a casa? Ti porti a casa a conoscere persone che non conosceresti stando a casa, di varie nazionalità, quelle cose lì. Certo, quindi insomma è una possibilità di arricchimento personale, appunto, di poter conoscere altre persone. Giada, io ti ringrazio per essere stata 12 minuti e per averci raccontato la tua esperienza. Di niente, ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. A proposito di work camps, a chi fosse interessato segnalo la data del 18 aprile 2013. All'Informa Giovani di Mestre Venezia, a partire dalle ore 18:30, si terrà un incontro proprio sui campi di lavoro, durante il quale verranno date tutte le informazioni sui campi disponibili nel 2013 e ci saranno volontari che racconteranno com'è andata la loro esperienza. Per informazioni potete consultare il sito veneziagiovane.info o scrivere a informagiovani@comune.venezia.it. Per avere una lista delle organizzazioni a cui rivolgersi per partecipare ad un campo, potete visitare sempre il sito dell'Informa Giovani di Mestre Venezia, che vi ricordo è veneziagiovane.info, alla sezione Europa Mondo Volontariato Internazionale. Vi segnalo tra le organizzazioni il sito dell'associazione Lunaria, www.lunaria.org, in cui potete trovare alla sezione Volontariato Internazionale, alla voce Campi Internazionali, tutte le proposte del 2013 che l'associazione offre, e potete anche provare direttamente a cercare il campo che vi interessa di più incrociando paese di destinazione, periodo in cui vorreste partire e tipo di attività che vorreste svolgere. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.